L'idea del museo nasce perché noi generalmente il 25 novembre usciamo con un report che affronta, diciamo, un tema relativo alla violenza maschile contro le donne, a cui si associa una campagna. Lavoriamo sempre, diciamo, con questa metodologia. Quest'anno abbiamo deciso di trasformare una campagna in una campagna fisica e quindi realizzare un museo. Quindi il concept del museo affonda, diciamo, le sue radici nel report, nei dati del report. Abbiamo sperimentato questa combinazione lo scorso novembre a Roma, ha avuto molto successo al punto tale che altre città hanno cominciato a chiederci la possibilità di replicare questa iniziativa, e quindi partiamo appunto con Milano. Può darci qualche piccola anticipazione di cosa si potrà vedere in questa esposizione? Dalla presentazione online, diciamo, sembra di capire che non si tratterà solamente di opere d'arte in senso stretto. Sì, allora, entrando al MUPA si potranno sicuramente visitare 27 opere, quindi qualcuna in più rispetto per esempio a quelle che si potevano vedere al Museo di Roma. Sono tutte opere che riguardano il tema del patriarcato, immaginandoci catapultarci in un futuro con una data ben specifica, che è il 2148, che è la data secondo il World Economic Forum finalmente riusciremo a sperimentare l'uguaglianza di genere in Europa. Ma non ci sarà solo la possibilità di visitare le opere, ci saranno anche molte altre iniziative, perché ci saranno dei talk, ci saranno dei workshop, ci sarà un podcast live, c'è uno spazio bimbi, quindi è sicuramente uno spazio interattivo in cui si mettono a tema tutta una serie di questioni che riguardano l'uguaglianza di genere e il superamento del patriarcato, così come lo viviamo quotidianamente nel 2026. Visto che mi diceva che c'è anche un collegamento con il report di ActionAid che viene pubblicato Ogni anno, come sono state scelte le opere e in generale i contributi che poi entrano a far parte di questi eventi? I contributi sono tutti contributi creati appositamente per l'esposizione, sono collegati alle tematiche che sono state affrontate all'interno del report. Noi abbiamo analizzato una serie di ambiti per verificare le percezioni e tutta una serie di elementi della popolazione italiana che sono, diciamo, poi alla base della creazione di norme di genere, di stereotipi che possono legittimare e anche produrre la violenza maschile contro le donne. Mi riferisco all'ambito quello dello spazio domestico, degli spazi pubblici, dei trasporti, degli spazi culturali ricreativi, il mondo digitale e poi trasversalmente la legittimazione della violenza. E proprio in occasione anche di questo nuovo MUPA di Milano, e visto che siamo in periodo di Olimpiadi, abbiamo aggiunto una nuova parte di dati con un addendum specifico sullo sport. Come dicevamo, il concetto che c'è dietro questa iniziativa è un po' l'idea che il patriarcato dovrebbe essere qualcosa che appartiene al passato, da qui appunto l'idea di esporlo in un museo, o appunto spesso viene rappresentato come qualcosa che dovrebbe appartenere al passato. Infatti parte della campagna di comunicazione di ActionAid è stato questo video, che è una sorta di compilation di una serie di momenti particolarmente sessisti, degradanti nei media e simili, e tra questi c'è anche proprio una menzione durante il programma radiofonico La Zanzara, proprio, se non ho capito male, al MUPA che era stato creato a Roma, che secondo appunto il giornalista era un'iniziativa completamente inutile. Quindi anche la ricezione di questo progetto da parte di certi ambienti, come appunto quello della Zanzara, sembra confermare che il patriarcato non sia un fenomeno che appartiene al passato, no? Esattamente, questa è la cosa, diciamo, più lampante, che nel momento in cui si attacca un'iniziativa di questo genere si dimostra quanto essa sia necessaria. Abbiamo avuto una serie di critiche lo scorso novembre, dopo aver lanciato il MUPA a Roma, e appunto una serie di giornali ci hanno attaccato dicendo che assolutamente non è più necessario, che ci sono, che oramai è stata raggiunta l'uguaglianza di genere e così via, quando invece, insomma, i numeri ce lo dimostrano, perché se prendiamo ad esempio due indici molto importanti che misurano l'uguaglianza di genere, uno nell'Unione Europea e l'altro nel mondo, vediamo che siamo veramente in posizioni non qualificanti per il nostro paese. Mi riferisco all'indice per l'uguaglianza di genere dell'Agenzia Europea che si occupa appunto di uguaglianza di genere, che esce ogni anno e che ci colloca ben al di sotto della media. Quindi siamo dopo la seconda metà sostanzialmente dell'indice, e ai primi quattro posti ci sono le solite note, quindi Svezia, quindi Danimarca e Finlandia, ma al quarto posto c'è la Spagna, per esempio. Quindi questo ci dà la speranza che in un paese con una cultura molto simile alla nostra, se si mettono in pratica delle politiche di senso e con degli obiettivi, con dei finanziamenti certi e anche di un certo rilievo, che vanno a incidere su tanti ambiti della vita, allora è possibile possibile produrre quel cambiamento che noi stiamo chiedendo continuamente anche attraverso iniziative di questo genere, perché ricordiamoci che l'uguaglianza di genere è strettamente collegata alla prevenzione della violenza maschile contro le donne. Nel momento in cui l'uguaglianza è più elevato come indice, si abbassa il livello di violenza maschile contro le donne. Questo è molto importante sottolinearlo ed è la ragione per cui, per esempio, noi rispetto al piano antiviolenza del nostro paese chiediamo che ci siano dei fondi molto più significativi, molto più consistenti per la prevenzione primaria, che è quella tipologia di prevenzione che fa in modo che la violenza proprio non avvenga.